piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La scelta è caduta sull'app Immuni, creata dalla società Bending Spoons in collaborazione col Centro Medico Sant'Agostino, e funzionerà con il Bluetooth, attraverso il quale è possibile rilevare i contatti di chi la scaricherà entro un metro di distanza da altri smartphone di persone che utilizzino la stessa app. Se il proprietario del telefono risulterà positivo al Covid-19, tutti i suoi contatti ravvicinati potranno essere ricostruiti per poter così rintracciare e avvertire le persone a rischio contagio e rendere più facile il loro isolamento. Questo dovrebbe anche garantire la privacy dei dati di chi accetterà di partecipare attivamente alla ricostruzione del percorso della malattia, perché la app conserva sul telefono del suo proprietario la lista dei codici identificativi anonimi degli altri smartphone avvicinati. L'altra funzione dell'app Immuni è il diario clinico con le informazioni sulla salute dell'utente da aggiornare indicando tipo e gravità dei sintomi provati. Secondo il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri, l'app potrebbe essere una svolta nella gestione della pandemia, ma solo a patto che almeno il 60% di cittadini italiani accettino di scaricarla e usarla attivamente. Questo era il TG3 Leonardo, che racconta una delle tante domande, cioè racconta il contenuto, una delle tante domande che ci facciamo in questi giorni, in questi momenti, legata alla soluzione che per molti sembra utile, interessante, importante, di risolvere il problema della necessità di ridare una vita più simile a quella che ci ricordavamo di fare un paio di mesi fa, di dare una app che permetta in qualche maniera di tracciare il pericolo, chiamiamola così, cioè tracciare il pericolo di eventuale contagio. Questa app, lo sappiamo già, si è arrivati dopo grandi discussioni a una soluzione tecnica condivisa. Si chiamerà Immuni, sarà probabilmente distribuita, resa fruibile alla popolazione, non sarà obbligatorio scaricarla, ma già si parla di alcune circostanze accessorie che non sono trascurabili, come ad esempio sì, ma chi non la scarica in realtà avrà delle limitazioni del suo movimento. Beh, noi oggi vogliamo, per quanto possibile, analizzando quelle che sono le fonti di stampa, gli articoli sono usciti, le poche dichiarazioni ufficiali, diciamo che è molto nebuloso ancora tutto quello che si muoverà attorno a questa app. Poi nel frattempo noi vogliamo cercare di capire di più quanto in realtà un esperimento simile in altri paesi ha avuto dei risultati apprezzabili, positivi o perlomeno da considerare, e quanto in realtà quello che con molta superficialità noi oggi pensiamo che sia una delle tante maniere per poter vivere meglio, in realtà però ci costerà o ci potrebbe costare qualcosa dal punto di vista della rinuncia alla nostra vita privata. Prima di introdurre l'ospite che ci aiuterà a ragionare, dipanare tutti i nostri dubbi, però vogliamo darvi uno strumento di partecipazione un pochino più elaborato al nostro programma, che è quello del sondaggio. Immaginate che voi avete avuto di questa app l'informazione dai telegiornali, dai giornali, dai servizi che su questi si è fatto. Alla luce di quello che avete finora saputo, come rispondereste e come vi collochereste in alcune categorie di cittadini che si trovano di fronte al dubbio di dire la scarico, non la scarico, la scaricherò, non la scaricherò, la userò, per me sarà qualcosa di trascurabile che non inciderà nella mia serenità, nella mia vita quotidiana, oppure mi pongo alcuni dubbi e alcune riserve. Allora quindi preparatevi a chiamare all'800 24 0024, le domande che vi faremo saranno queste. Per affrontare la fase 2 dell'emergenza coronavirus e gestirla in sicurezza, il governo ha scelto l'app Immuni per il tracciamento anticontagio delle persone. L'app dovrebbe dare la possibilità di individuare tutte le persone che sono entrate in contatto o sono state a distanza ravvicinata con una persona positiva al coronavirus, per intervenire prima che il contagio si diffonda. Poiché il tracciamento di ogni nostro spostamento e contatto interpersonale comporta degli evidenti problemi di privacy, Immuni potrà essere scaricata e utilizzata solo su base esclusivamente volontaria e gratuita. Oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori qual è il loro orientamento. Sono favorevoli al tracciamento anticontagio tramite app? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Tracciatisti responsabili. Scaricherò l'app Immuni per senso di responsabilità, anche se può comportare un piccolo sacrificio in termini di privacy. E poi chi non ha nulla da nascondere nulla deve temere. E quindi andrebbe resa obbligatoria per tutti. 2. Antitracciatisti libero movimentisti. Non intendo scaricare l'app Immuni, perché devo essere padrone di vedere e frequentare chi voglio, quando voglio e come voglio, senza che un'autorità o qualcun altro possa saperlo. 3. Tracciatisti riservisti. Sono disponibile a scaricare l'app Immuni solo se mi viene garantito un uso limitato alla fase 2 e solo se i miei spostamenti e contatti verranno eliminati una volta che l'app verrà disinstallata. Diciamo che abbiamo dato tre possibili scenari, vediamo come riusciamo in qualche maniera con voi a definire quella che è una tendenza generale. Abbiamo i tracciatisti responsabili, sono quelli che la scaricheranno, si faranno carico di una rinuncia per il bene comune e pensano che in fondo, non avendo nulla da nascondere, non hanno nulla da temere. Sono gli antitracciatisti libero movimentisti che non la vogliono proprio scaricare, sono quelli che dicono la libertà vale più di ogni tipo di riserva e quindi logicamente pensano che loro non la scaricheranno e nessuno può imporgli comunque di scaricarla. Tre sono i riservisti, tracciatisti riservisti, la scaricano e la usano però semplicemente se vengono rassicurati che questo non comporterà un sacrificio per la loro vita privata. Quindi 800 24 00 24, cominciate a collocarvi e noi cerchiamo per quanto possibile farvi capire meglio di che si tratta. Professor Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Cominciamo a capire, innanzitutto, professor Rossetti, guardando i giornali e seguendo quelle che sono le poche, scarne e a volte anche contraddittorie dichiarazioni ufficiali, cerchiamo di tracciare innanzitutto il percorso che ha portato e ha determinato la creazione, la messa a punto di questa app. Noi ci eravamo sentiti un paio di settimane fa, ancora era tutto diciamo in un progetto, oggi il progetto è diventato una realtà. Lei ha capito di cosa si tratta questa app, chi la produce, attraverso quale maniera verrà distribuita e quali saranno i criteri per usarla? No, in realtà di queste cose ho capito solo chi la produce, che è questa società Bending Spoon, che ha alle spalle il gruppo San Donato che si occupa di sanità, ma oltre a questo si sa ben poco, perché non si ha nessuna descrizione ufficiale del funzionamento dell'app. Si colgono tracce qui e là sulla stampa appunto del possibile funzionamento, però in realtà non c'è nessuna conferma. Addirittura la presentazione dell'app è stata abbastanza contraddittoria, perché all'inizio è stata presentata come un'app basata sul GPS, adesso invece nell'ordinanza di Arcuri viene presentata come un'app basata sul Bluetooth. Si parla di Bluetooth, che già è una cosa che limita molto diciamo le distanze tra le persone, perché funzioni Bluetooth a quanto bisognerebbe passare vicino alla persona eventualmente segnalata come persona portatrice di un possibile rischio. No, in realtà il Bluetooth è troppo ampio, il problema è un po' questo qui, perché un Bluetooth tira fino a 10 metri, vabbè, magari meno in situazioni chiuse, però in realtà sono molti e soprattutto il Bluetooth passa le pareti. Ad esempio il mio vicino di casa è un medico che io non vedo ormai da mesi, che è ovviamente asserragliato in casa con la famiglia, però probabilmente e vedo peraltro dalla mia casa i suoi strumenti Bluetooth, quindi un'applicazione installata sul mio cellulare mi darebbe vicino a questo medico, che ovviamente è una delle persone a rischio in questo periodo, quando in realtà appunto io c'è di mezzo una parete e non lo vedo da molto tempo. Quindi in realtà paradossalmente il problema è che il Bluetooth è troppo poco preciso. Certo, ci saranno metodi ovviamente per raffinare questa misura, cioè riportarla a qualche metro anziché a una decina di metri, però appunto sono sistemi che sono estremamente complicati. In un raggio di 10 metri dalla tua postazione a dove cammini, tutte le persone che hanno un telefonino, immagino con il Bluetooth attivo, perché sennò è inutile mettere l'app, saranno segnalate. Il Bluetooth e l'app, devono avere, no? Cioè il sistema non dovrebbe rilevare tutti coloro che hanno semplicemente il Bluetooth attivo sul cellulare, perché molti ce l'hanno. Bluetooth è app attiva. Bluetooth, l'app dovrebbe essere sempre attiva, no? Una volta installata dovrebbe continuare a funzionare costantemente in background, probabilmente, cioè senza che si veda sopra. E poi dovrebbe rilevare le altre app in circolazione. Probabilmente ci sarà anche una misura di carattere temporale, cioè se io passo accanto a una persona, ovviamente non dovrebbe essere rilevata, no? Perché le probabilità che la persona mi contagi mentre io le passo accanto sono veramente minime. Quindi ci dovrebbe essere, credo, perché ripeto, non si sa niente, però probabilmente ci sarà anche qualcosa che misura il tempo dell'interazione, no? Se io condivido uno spazio per un certo periodo di tempo. Ma anche qui non è banale, perché immaginate fermi al semaforo, no? Vi fermate accanto a una persona che ha l'app che magari è positiva e siete ovviamente divisi dai finestrini dell'automobile, siete chiusi nella vostra automobile, eppure secondo l'app vi siete avvicinati a una persona che è positiva. Ecco, ma quindi... io una cosa non ho capito, Andrea Rossetti, mettiamo che la mia app mi fa passare nelle vicinanze, cioè nel raggio di 10 metri, una persona che è segnalata come positiva al Covid-19. Cosa succede? Mi si accende una lampadina, si accende lui, interviene la polizia, arriva... cosa succede momento? Innanzitutto lui deve essere, o meglio, tutto il rilevamento viene fatto a posteriori, cioè la persona viene individuata come positiva, nel momento in cui viene individuata come positiva, l'operatore sanitario gli fornisce, che è dotato di un'altra app apposta, gli fornisce un codice. Con questo codice tutti i contatti che sono stati raccolti nel cellulare dell'ammalato, dell'infettato, vengono spediti a un server centrale. Il server centrale poi contatterà, manderà un messaggio a tutte le persone che si sono avvicinate a questa persona. Anche qui non si capisce in che arco di tempo, il giorno prima, due giorni prima, una settimana prima, questa è un'altra cosa che non si capisce. Il meccanismo dovrebbe essere più o meno questo. Beh, questo comporta sicuramente che però che le persone che in qualche maniera sono segnalate perché sono state in qualche momento toccate al virus rimangono con una, diciamo, lettera scarlatta addosso per sempre, fino a che dura diciamo il pericolo, o a un certo punto vieni considerato non più pericoloso per la società. Queste sono domande, sembrano banali, ma le faccio. Ci sono persone che si fanno la loro malattia, ne escono, riprendono la vita e magari non sono più positive. Queste rimangono sempre comunque tracciate o tracciabili come persone che sono entrate in contatto col virus. Viene spiegato questo? Non viene spiegato, però credo ovviamente di no, no? Allora, in teoria tutti i dati verranno eliminati alla fine. Peraltro questa app avrà, quello che si sa, due funzioni, cioè oltre a questa funzione tracciante che abbiamo descritto, avrà anche una funzione di diario, cioè l'idea è che colui che la scarica dovrà quotidianamente aggiornare le sue condizioni di salute, quindi metterà dati tipo dentro età, malattie pregresse, medicine che prende, e poi farà questo diario medico, insomma, diciamo così, e quindi questo resterà in qualche modo sulla sua app. Anche qui, in teoria, tutti questi dati dovrebbero essere eliminati quando l'app finisce di avere la sua funzione in situazione di emergenza. Però noi lo sappiamo benissimo, insomma, che una volta che un dato è in formato digitale ed è da qualche parte all'interno di qualche benissimo cloud, che è caduta la linea. Non sento più Rossetti, Rossetti o non sento o sono anch'io fuori onda. Questa mattina ci sono un po' di problemi con la rete, avevo difficoltà anche a farmi vedere audio. Vediamo se sente qualche ascoltatore. Renato da Milano, mi sente? Sono qua. Sì? Pronto? Ecco, ci risuono, sì, ci risuono, sì. Adesso sento. Renato da Milano, mi sente? Sì, sì, sono qua. Da me è l'uno. Ecco, sì, ho avuto un piccolo down, penso, ma succede, le reti molte volte sono belle occupate, poi certo. Parlando oggi di informatica. Allora, Renato da Milano, quale gruppo lei si sente meglio collocato? L'uno, assolutamente. Tracciatista responsabile, quindi lei è sicuramente... fiducioso che questa sarà un'app che comunque sarà utile come è stata utile da altre parti, quindi lei non ha nessun tipo di sospetto, no, o pregiudizio. Le comunicazioni comunque che vengono date non sono così pericolose per quanto mi riguarda, quindi per me... Sì, è perfettamente, diciamo, nel tracciatista responsabile, sì, cioè, niente di male, non c'ho cose losche da nascondere, quindi va bene. Questa è un'opposizione. Sentiamo Michele da Milano invece. No, buongiorno Nicoletto. Allora, sì. Molto semplice. Allora, qual è il prezzo della salute? La nostra libertà. Siamo agli arresti domiciliari, ci hanno messo dentro, ok. A Allora, io adesso posso andare in giro. Gli arresti domiciliari prevede che uno abbia compiuto un reato, nessuno ha compiuto reato, esatto. è una misura di sicurezza per la salute generale. Esatto, ce l'hanno imposto, sempre dentro. Adesso mi chiedono di scegliere di andare in giro per il mondo, tracciato con un'app, per cui magari io di notte vengo, se viene fuori, sono stato in contatto a un metro, magari col finestrino appunto alzato della macchina, uno positivo, cosa viene dentro? Polizia in casa, mi portano, cosa fanno? Cioè, vengono in casa me, mia moglie, i miei bambini, cioè, mi sembra un bellissimo prezzo da pagare, una limitazione della mia libertà. Ma ecco, una cosa importante, poi... Michele, lei pensa che questo prezzo da pagare sia un prezzo da pagare comunque, perché questo al momento è... il massimo della sicurezza che la comunità scientifica, chi si occupa comunque di questo problema, reputa necessario, o pensa che ci sia dietro, perché questa è la differenza, una sorta di desiderio intanto di anticipare un sistema di controllo generale che probabilmente è superfluo? Questo è il punto di caduta, perché se uno si fida e dice... Questa è la cosa. Cerco di rispondere. La comunità scientifica, tra l'altro io sono un medico, la comunità scientifica dovrebbe essere in grado di fare mettere in campo delle misure di prevenzione, eccetera, eccetera, se sta e conosce il nemico che è in fronte. Quest'app ti dice che se sei stato in contatto con qualcuno è meglio che stai a casa. È vero, ma è passato tempo. Se io sono guarito e sono immune, e magari l'ho già fatto, mi potrei anche riammalare, non lo sappiamo ancora. Ma se non si andrebbe associata ad altri mezzi, come ad esempio i famosi test sierologici, eccetera, eccetera. Sì, lei giustamente, la medico, rende il problema nella sua complessità. Io direi che questa mattina non entriamo in questo tipo di complessità, se no non ne usciamo più. Fermiamoci soltanto all'analisi di quello che sappiamo che sia l'app e quello che pensiamo che quest'app vada comunque a toglierci di ciò che consideriamo un nostro diritto, un diritto alla nostra vita privata, a salvaguardare i nostri dati sensibili, del fatto che non è detto che tutti debbano sempre sapere ogni cosa che noi facciamo, perché esiste il diritto alla propria vita privata, uno fa quello che vuole. Ci fermiamo un istante, così abbiamo un minuto per vedere se riusciamo a ripristinare l'ottimizzazione del collegamento, che sicuramente dipende dalla rete mia, che oggi fa un po' di problemi. A tra poco. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Per affrontare la fase 2 dell'emergenza coronavirus e gestirla in sicurezza, il governo ha scelto l'app Immuni per il tracciamento anticontagio delle persone. L'app dovrebbe dare la possibilità di individuare tutte le persone che sono entrate in contatto o sono state a distanza ravvicinata con una persona positiva al coronavirus, per intervenire prima che il contagio si diffonda. Poiché il tracciamento di ogni nostro spostamento e contatto interpersonale comporta degli evidenti problemi di privacy, Immuni potrà essere scaricata e utilizzata solo su base esclusivamente volontaria e gratuita. Oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori qual è il loro orientamento. Sono favorevoli al tracciamento anticontagio tramite app? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Tracciatisti responsabili. Scaricherò l'app Immuni per senso di responsabilità, anche se può comportare un piccolo sacrificio in termini di privacy. E poi chi non ha nulla da nascondere nulla deve temere, e quindi andrebbe resa obbligatoria per tutti. 2. Antitracciatisti libero movimentisti. Non intendo scaricare l'app Immuni, perché devo essere padrone di vedere e frequentare chi voglio, quando voglio e come voglio, senza che un'autorità o qualcun altro possa saperlo. 3. Tracciatisti e riservisti. Sono disponibile a scaricare l'app Immuni solo se mi viene garantito un uso limitato alla fase 2 e solo se i miei spostamenti e contatti verranno eliminati una volta che l'app verrà disinstallata. Tre possibilità per mettersi di fronte alla necessità, al dovere o alla scelta di scaricarsi l'app Immuni. Eravamo al telefono Andrea Rossetti, ricordo, professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Rispetto all'ultima domanda che abbiamo messo, c'è l'assicurazione che una volta tutto finito, si spera prima possibile, poi tutto verrà cancellato? Perché tra le tante narrazioni parallele ci sono che dentro questa app ci siano i figli di Berlusconi, questa è la voce poi presa come una vulgata, non so cosa voglia dire, ma questo si dice, che in realtà ci sia un'azienda che si occupa di marketing, quindi tutti i nostri dati saranno usati comunque poi per mandarci informazioni commerciali a casa, o che comunque rimarremo perennemente segnati e tracciati tutto quello che abbiamo fatto, detto e comunicato in questo periodo. Ecco, c'è questa assicurazione poi di oblio totale alla fine? Allora, ancora non c'è, ma sicuramente ci sarà, perché è una delle cose che vengono previste dal GDPR, dall'indicazione dell'Europa. Il problema è che una volta che un dato è digitalizzato, noi non sappiamo davvero che fine farà. Una volta che un dato è digitalizzato, non sappiamo quante volte viene copiato. E anche qui dobbiamo avere certezze, non solo sul fatto che verrà cancellato dopo, ma anche su come verrà memorizzato. Perché per memorizzarlo in maniera che non sia copiabile, non è una cosa semplicissima, no? Ci serve una struttura informatica piuttosto complessa e che soprattutto va gestita. La cosa non chiara è questa, ad esempio, chi gestirà il funzionamento dell'app? Cioè l'app sarà semplicemente costruita da Bending Spoon oppure sarà anche poi gestita o sarà gestita dal governo? E in questo caso dal governo chi ha le competenze per fare questa cosa? I server dell'INPS, che hanno già dato grande prova ultimamente, no, della capacità, della loro impenetrabilità? Sono tutte cose complicate. È chiaro che sulla carta noi avremo una serie di assicurazioni rispetto al modo in cui i dati verranno trattati. Però queste assicurazioni bisogna vedere come saranno istanziate dal punto di vista tecnico. No, è proprio quello che non sappiamo, perché di questa app non è stato ad esempio rilasciato il codice sorgente. No, anche qui una delle cose, una delle richieste dell'Europa. E invece è che mi ricordo che all'inizio era stato detto sarebbe stata open source, tutti avremmo potuto vedere. È capire. Una delle richieste. Ieri ho interagito con una parlamentare che sembrava su Facebook, che sembrava al corrente le cose, ma ha detto che verrà rilasciata presto. Ma presto quando, voglio dire? Se il codice sorgente, l'app è già pronta, come c'è scritto nell'ordinanza, il codice sorgente è già pronto, cosa aspettano a lasciarlo in giro? In Olanda hanno fatto così, in Olanda per scegliere l'app hanno fatto una serie di speech pubblici e le aziende che presentavano l'app, dopodiché hanno 5 delle 7 che hanno presentato la loro app, hanno immediatamente rilasciato il codice sorgente, in maniera che coloro che sanno fare queste cose si mettessero immediatamente a studiarlo. Qui invece ormai la scelta è stata fatta venerdì e ancora non c'è traccia del codice sorgente. Certo, c'era sabato e domenica e mezzo, per carità, però mettere online un file, perché il codice sorgente alla fine è un mero file di testo, no? Quindi mettere online un file di testo non è che ci vogliano proprio i giorni, no? o una tecnologia. Questo lo spieghiamo a chi non necessariamente ha cognizione di tipo informatico. Avere visibilità del codice sorgente significa, detto in parole povere, poi mi correggerà Rossetti, capire chi ci mette le mani e a chi manda le informazioni. Esattamente, il primo passaggio per farlo non basta, per carità, perché in realtà poi dei trucchetti, insomma, delle backdoor, no, delle porte d'ingresso posteriore possono essere inserite anche quando si compila questo file, quando si crea effettivamente il codice eseguibile. Però il primo passo per avere trasparenza è avere il codice sorgente. Codice sorgente è scritto in linguaggio di programmazione, né io né Gianluca credo, no, se siamo in grado di leggerlo, però ci sono persone invece che sono in grado di leggere e di capire che fine fanno le nostre informazioni, cioè tutti i giri che fanno le nostre informazioni. Capire se c'è un attentato alle vie d'ingresso posteriori, che questo mette sempre un po' di preoccupazione, usando le metafore. Allora, intanto io ringrazio Andrea Roccabella, che è regia a Milano, Giorgio De Luca in assistenza, naturalmente Sandro Fortunati, che sta rabberciando la mia malconcia rete per farmi andare in onda anche in video. A Roma c'è Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Sentiamo qualche ascoltatore. Maria Gabriella da Roma. Maria Gabriella? Eccomi qua. Allora, Maria Gabriella, come si pone rispetto al nostro sondaggio? Sì. Lei mi sente? Mi sente? Sì, la sento, certo, la sento. La sento. No, volevo dire che io sono assolutamente favorevole a questa cosa qua, perché mi sembrerebbe molto egoistico non farlo, perché il Covid-3 purtroppo non credo che finisca qua, io questo non ci credo proprio, come credo non lo so, ci stanno illustrando molto bene i nostri scienziati. Direi da, diciamo, è tracciatista responsabile, non avrebbe problemi, diciamo, per chi non avesse grandi familiarità con l'informatica, si parla addirittura con dei braccialetti molto semplificati, che c'è lo stesso uso per gli anziani che non hanno uno smartphone di ultima generazione, però comunque sono tutti tracciati. Benissimo. Adriana da Roma, sempre un'altra signora. Adriana. Sì, salve. Senta, io sono riservista perché giustamente, come ha detto il professore, io voglio leggermi intanto i termini e condizioni dell'app, cioè la voglio scaricare perché giustamente voglio, cioè non lo faccio solo per me, vorrei che anche gli altri, quando li incontro, vuole massima trasparenza su quello che fa quest'app, dove mette i dati. Esatto, anche perché i nostri dati, lo so che tutti dicono vabbè, su internet ormai siamo traccati, però penso che una cosa è che se io so e come so che vengo traccata, una cosa è se i miei dati vengono poi ceduti ad altre società, ci sa il commercio. Quindi diciamo ci deve essere una documentazione sulla privacy molto esaustiva che ci dice esattamente tutto. Massimo da Varese. Grazie. Massimo da Varese. Eccomi, sì, pronto. Allora, a quale categoria lei appartiene di queste tre, secondo lei? Ho un Razor degli anni 2000, questo è il telefono che uso. Vabbè, lei diciamo... però questo non la esclude, perché le danno il braccialetto. Se vuole può averla lo stesso. Lei può dire: c'ho il vecchio telefono. Anch'io posso dire... C'ho due numeri di telefono, c'ho la dual sim, scarico l'app su quello aziendale e in realtà mi uso quell'altro e lo tengo spento. Essere un'imposizione appunto di legge, le dico che preferirei comunque il braccialetto. Però io il ragionamento che volevo fare è che la storia insegna che non vi è alcuna garanzia di nessun tipo che i dati non vengano, ad esempio, telefonici conservati come parla la normativa europea, che non venga in nessun modo, in effetti, come hanno detto già degli ascoltatori, per cui mi ripeterei, non vi è alcuna garanzia che i dati non vengano dispersi e compravenduti di seconda, terza, quarta mano, cosa che di fatto è. Se poi vogliamo parlare di Grande Fratello, di Ecelo e di tante altre entità che comunque operano e che comunque ambiscono ad un controllo totale, a prescindere da qualsivoglia tipo di emergenza, perché la cosa è partita, se vogliamo proprio dirlo, con lo crollo delle Torri Gemelle. Quindi io non vedo l'imposizione di una app tracciata, ma perché la storia insegna che non vi è alcuna garanzia che i dati poi vengano appunto distrutti. E dirò di più, sì, ma è la vita che ci insegna che non c'è mai nessuna garanzia di certezza su nulla che attenga la condizione umana. Lei però dà visibilità a quello che è la l'onda più larga, che porta addirittura all'idea che finalmente sono riusciti quelli che paventavano un microchip alieno sotto tutti, che dicono che il 5G comunque è l'origine di tutti i mali, possono anche, a pieno ragione, dire in questo momento: vedi, sono finalmente riusciti, adesso ci daranno l'app, saremo tutti tracciati per sempre. Vediamo Andrea Rossetti su alcuni dei dubbi dei nostri ascoltatori. Si è parlato di normativa europea, in realtà l'Europa dice che non può essere obbligatoria, su questo non ci piove, ma se, come oggi qualche giornale fa capire, non so su quale fonte, che in realtà sì, non è obbligatoria, ma chi non la usa ha delle limitazioni alla sua mobilità, è compatibile questo con il nostro sistema giuridico? No, direi di no, anche qui dire che non è obbligatoria, ma poi che non è obbligatoria, ma poi imporre sanzioni a chi non la installa è come dire che è obbligatoria fondamentalmente, no? È semplicemente un gioco di parole dire che in questo caso non sarebbe obbligatoria. E no, non può avvenire, l'obbligatorietà non può essere messa, non può essere obbligatoria. Una cosa pesante, mettiamola in questi termini, insomma, se avvenisse non potrebbe sicuramente avvenire tramite un'ordinanza, dovrebbe avvenire con un atto legislativo. Preferibilmente peraltro una legge, quindi una cosa che viene discussa in Parlamento e non semplicemente un decreto legge, cioè qualcosa che autonomamente il governo emana. Sì, che andrebbe a cozzare però con la direttiva europea, visto che dobbiamo fare tutto quello che dice l'Europa, in questo caso non faremmo quello che dice l'Europa. Facciamo una legge che va contro. No, però qui, vabbè, qui sono indicazioni, quelle europee, insomma, perché comunque sì, sì, nel GDPR è prevista la possibilità in casi eccezionali di trattare i dati sanitari dei cittadini per il bene comune in determinati modi, ok? Quindi alla fine, diciamo così, l'accrocco giuridico in base al GDPR si può trovare. Ci deve essere un passaggio legislativo, però, quindi qualunque, allora, perché poi eravamo arrivati a dire, no, che il sistema manda sul cellulare di coloro che sono stati vicini a uno infettato una comunicazione. Il problema è che non si sa neanche il contenuto di questa comunicazione. Che cosa conterrà questa comunicazione? L'obbligo di recarsi al più vicino pronto soccorso? L'obbligo di chiamare qualcuno? L'obbligo di stare in quarantena? Non si sa, questo ancora non si sa. In ogni caso questi dovranno essere provvedimenti che verranno decisi per legge, quindi non semplicemente da un gruppo di scienziati, ma dal governo, insomma, dal governo e meglio ancora, come dicevo prima, dal Parlamento. Vorrei sottolineare una cosa. Noi parliamo di app di tracciamento, tecnicamente non lo è, nel senso che non c'è il GPS, no? Quindi non è che noi veniamo tracciati costantemente i nostri spostamenti. Sì, però okay, dal momento che però, che ti traccia contatti con gli altri, sei esatto, tracciato. Esatto, sei indirettamente tracciato, però tecnicamente no, alcuni dicono che non è un'app di tracciamento, è vero, è chiaro che però a posteriori, no, ricostruendo i contatti, io posso effettivamente ricostruire dove sono stato. Scusate, lo dico agli ascoltatori, do sempre delle metafore comprensibili a tutti, come le mollichine di pollicino nel bosco. Esatto. Se mettiamo insieme tutte le mollichine che sono i contatti con gli altri esseri umani che hanno un telefono, facciamo il nostro tracciato. Ci fermiamo un istante, ancora un istante. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Melog. L'app immune deve essere obbligatoria. Pulsantino, io clicco. Semaforo verde, luce verde, significa entro in un negozio solo se c'ho l'app e sono verde, vuol dire che non sono infetto, non sono a rischio infezione, quindi posso entrare sapendo che tutti hanno l'app, quindi se no non ha senso. Viene indicato che i dati sono anonimi, ma probabilmente c'è un cortocircuito sul termine anonimo. Da un punto di vista privacy, per dato anonimo si intende un dato che o è anonimo all'origine, non so a chi appartiene e non lo posso sapere, non riesco più a risalirci, oppure ho un dato che inizialmente identificativo e tramite delle elaborazioni complesse diventa anonimo e quindi non posso più risalire a quel soggetto. Negli altri casi parliamo di pseudonimizzazione. Questo era un piccolo blob preso da persone che si esprimevano sull'app e su vari canali di YouTube. Inutile che mi chiamate perché sto in diretta, mi sto ascoltando il telefono, non mi chiamate. Dicevo, volete un motivo di preoccupazione? Mi riferisco soltanto a metà del cielo che ci sta ascoltando, da un'università americana e un'altra indiana, degli studiosi avrebbero ipotizzato che il coronavirus si rifugia nei testicoli, per questo muoiono più uomini che donne, quindi se sentite un particolare appesantimento in questi giorni è perché lì dentro ci sta il coronavirus. La cito perché è una delle tante notizie in un momento in cui arrivano un'infinità di notizie senza nessuna necessaria approfondimento, verifica, soprattutto quando si parla di scoperte e di studi scientifici. E anche questa da domani ci ironizzerà, chi ci scherzerà, chi ci riderà, chi dirà che bello, sono donna, non c'ho problemi, chi dirà ecco perché a un certo punto non mi sentivo proprio bene. Sentiamo Gianni da Treviso, buongiorno, come si colloca lei rispetto al nostro sondaggio? Assolutamente al numero uno. Guardi, noi oggi siamo già tracciati, non dire che la raccontiamo, e dall'amante sì, sì, ci si andrà quando è finito il pericolo, voglio dire, no? Ma perché pensate tutti all'amante? Che il problema numero uno diventa l'amante. Non mi pare in questo momento il problema sia l'amante. Lei dice la gente si vuole far tracciare perché va dall'amante. amante maschio, no, amante femmina, dipende dal punto di vista, se ci va un uomo su una donna, ci va un uomo, donna su donna, è vario. Perché il problema amante sembra in questo momento quello prevalente, la gente non vuole l'app che vada all'amante, a parte che la voglia di andare dall'amante penso sia molto scemata, poi dopo la notizia che ho dato io adesso del coronavirus nei testicoli, uno attribuirà il proprio appesantimento a ben altre cause che la mancanza di amante. Quindi però lei è d'accordo che comunque, quasi con una sorta di sarcasmo, dice, così imparate alla funzione moralizzatore, no, di questo atto, non lo so. Tutt'altro, voglio dire, è talmente pericoloso, tra virgolette, quello che stiamo vivendo adesso, e siamo già tracciati, questa cosa aiuterà moltissimo ad evitare ulteriori contagi. E quindi la vedo obbligatoria, l'amante era uno scherzo per dire, pensando, ma obbligatoria non può, abbiamo detto che sì, può essere reso obbligatoria, ma è un atto legislativo molto, molto importante, da essere fatto la legge apposta, dice, da oggi gli italiani devono obbligatoriamente essere tutti tracciati, chi non è tracciato compie un reato. Si rende conto che cambia notevolmente rispetto a dire scaricatevi l'app, state più sicuri, fare una campagna di convinzione. Si entra in un clima anche difficile da gestire, già si gestisce male il fatto che la gente non debba andare a fare le corsette o le gite fuori porta, già questo è difficile, che sembra una cosa banale. Lei pensi quanto è difficile poi dire alle persone per forza dovete scaricarvi l'app, è una cosa molto complicata. Sentiamo Francesco da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono fermamente contrario all'applicazione di questa app e va da sé che la storia ci insegna che in Italia quando una cosa è volontaria e poi comunque ci sono le penalizzazioni, vedi la firma della privacy che se non firmi in banca non puoi avere il conto corrente. E da tutto ciò concludo brevemente lanciando anche una proposta a chi è volontario, ma perché non sfruttare meglio questa app, per esempio dando in dotazione ai nostri bambini l'app se entrano in contatto con un pedofilo, perché non dare sì, ho capito, va bene, pensiamo al coronavirus adesso, poi bambini col pedofilo che segnala i pedofili, si aprirebbero altri mille problemi, però i bambini, la cosa più importante, visto che stanno a casa, a meno che non ce l'abbiano dentro casa, almeno da questo rischio sono abbastanza tutelati. Pensiamo adesso un attimo al coronavirus, perché già trovato il gioco, già sembra che sia possibile applicarlo a tutte le circostanze. Poi vedi Andrea Rossetti come è facile a un certo punto, proponendo uno strumento di controllo, far aprire immediatamente tutta una serie di altre ipotesi. Primo, sì, però la gente non va dall'amante, quindi c'è un intento chiaramente moralizzatore, quasi invidia di chi c'ha l'amante, dice così adesso imparate. Secondo, datela ai bambini così si salvano dai pedofili, lettura abbastanza primordiale di tutta la rete, di tutta idea di internet che sia il covo di ogni vizio, e anche questo, ma non è questo. Sarà un po' difficile comunque far passare, mi sembra, devo dire, dal punto di vista proprio della mia vocazione, del mio mestiere, che anche quest'app, oltre l'aspetto, diciamo, di messa a punto tecnologica e informatica, occorreva una campagna di informazione adeguata da mettere a punto immediatamente, non aspettare che maturino le ipotesi. Sì, il problema è proprio questo, insomma, la comunicazione ancora una volta è stata fatta piuttosto male. Ripeto, a me è piaciuto molto il modello olandese, proprio perché c'è stato un coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica anche nella scelta. No, fin dall'inizio si è parlato pubblicamente del modo in cui l'app funziona e immediatamente si è reso accessibile il codice, il modo, no, si è permesso di studiare come davvero, al di là delle parole, questa app funzioni. Peraltro una delle app presentate in Olanda è stata hackerata. No, la dimostrazione che da fare dei sistemi sicuri non è semplice, come dirlo, no, non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Purtroppo qui si insiste su una comunicazione che insiste sull'anonimità, su queste cose che tutto sommato non sono esattamente vere, non c'entrano il problema e non rispondono alle paure di persone come me, fondamentalmente. No, non c'è di peggio che poi rassicurare su circostanze che immediatamente si scopre in quanto fallaci, piuttosto che dire realmente come stanno le cose, cioè, guardate, dovete rinunciare a qualcosa per il bene comune, convincimi che io, se rinuncio a qualcosa, funziona. No, dirmi, guarda, è tutto tranquillo, nessuno ti traccia, i dati vengono buttati via, quando poi su questo ci sono molte perplessità, chiamiamola così. Sentiamo Beniamino da Roma. Salve, buongiorno, vi ascolto, vi stavo ascoltando, è un'argomentazione bella, interessante e vi ringrazio di dare l'opportunità comunque a parlare, di dar voce comunque a dei cittadini, no? Io ho lavorato 35 anni dentro il mio lavoro da 40 anni. Vabbè, l'informazione è bella, cioè, aiuta in questi momenti. Ma vado al punto, proprio, siamo alla fine. Scusi, ma la sua posizione? Qual è la sua posizione? La mia posizione è SNI. Cioè, non serve a monte fare una tracciatura delle persone, perché a monte non si fanno i tamponi. Allora, i nuovi contagi che ci sono stati sono dipesi dalle persone delle categorie indispensabili che hanno girato per tutta Italia, per le regioni di competenza, per andare al lavoro e riandare a casa. Queste persone non sono state controllate, tra cui me, perché io faccio parte di una categoria. Perciò, se io mi metto il braccialetto e sanno dove vanno e non sanno che se io sono un portatore sano o se sono un portatore di virus, e come fai? Sì, lei dice, non c'è un senso. È tracciato soltanto chi viene tamponato e viene diciamo, diagnosticato come persona a rischio. Tutti gli altri, come lei, che probabilmente fa l'infermiere o qualcosa del genere, o il medico, dice: io tutto il giorno sto a contatto con il Covid, posso essere anch'io una persona asintomatica che sta bene, però se lo porta dietro, e a me non mi traccia nessuno. Sì, è uno dei problemi. Non è che si possono risolvere a priori al 100%. Sentiamo Antonio da Rimini, poi chiude Rossetta. Antonio da Rimini, la sua posizione. Sì, buongiorno. Assolutamente sì. La numero uno. Per me questa è la nostra, per la mia generazione, la nostra guerra, per quanto tanti si scandalizzino da questo tipo di definizione, ma gli estremi rimedi. Ho già diciamo che questa corrisponde alla fede che si dava alla patria in altri tempi. Ecco, quasi, si rinuncia quasi a una cosa importante. Più o meno è questo. Ho già discusso con qualcuno, ama la libertà, ama far sapere i fatti miei. Come? Metti le tue foto su Facebook anche di quando ti vai a strappare i peli dal naso? Quindi voglio dire, certo. Che cosa mi cambia? Sembra logico. Allora, vediamo con Andrea Rossetti. Andrea, tiriamo se possibile in un minuto la conclusione. Mi dice Fabrizio Intonti, che ha sott'occhio tutti i dati del sondaggio, che la stragrande maggioranza degli italiani non si pone il problema, è d'accordo per l'app. Quindi noi stiamo ragionando e dando strumenti comunque di riflessione o di complessità, ma in realtà l'app è già passata, sono tutti d'accordo. Come la vedete? Non è detto che funzioni, non è detto che serva qualcosa. Questo è la cosa, il problema più grosso. Cioè, senza tutto un sistema dietro di prevenzione, di tamponi, come ha detto qualcuno, l'app potrebbe essere uno strumento totalmente inutile. Il modello Singapore, che si cita più e più volte, mostra come in realtà l'app sia solamente l'inizio di un percorso. Del resto del percorso non si sta neanche parlando. Quindi il rischio che noi stiamo correndo adesso è infilarci sul cellulare una cosa che tiene memoria non solo dei nostri spostamenti, ma soprattutto delle nostre condizioni mediche, che è molto più grave. Senza che questo in realtà porti a un'effettiva miglioramento della situazione. Teniamo conto che senza app comunque la prima fase si sta chiudendo. Perché? Perché gli italiani tendenzialmente rispettano le norme, cioè stanno a casa, stanno distanziati. Quindi in questo momento veramente non si capisce, no, l'app non serve comunque a dare maggiore forza, a dare maggiore efficacia, effettività alle norme. E come sempre facciamo, questo è il punto oggi, sempre pronto a cambiare idea e a smentire noi stessi da domani se ci saranno altre informazioni. Alla prossima!